Melog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Io sono contadino, quindi abbiamo le gente favorite. Abbiamo girato tutta l'Italia, ora non è più un movimento dei tanti, è il movimento di tutti, quindi nessun simbolo, solo tricolore e viva l'Italia! Grazie, grazie Danilo, grazie. Ragazzi, scusi, come fa a bere una Jaguar? Poi non è la mia! Scusi, metta le mani a posto. Non è la mia, non è la mia! No, scusi, va! Non è la mia! Danilo! Sali in macchina! Non ce l'ho, non ce l'ho! Ciao, grazie! Tra i tanti paradossi del nostro paese, c'è quello che viene evidenziato questa mattina da tutti i giornali, tutti in prima pagina, tutti sottolineano il fatto che il leader del coordinamento 9 dicembre, Danilo Calvani, che è un personaggio chiave del movimento dei forconi di cui stiamo parlando ormai per il terzo giorno, si sia presentato in piazza dei Ferrari a Genova a bordo di una Jaguar. Improvvisamente tutti scrivono: ma com'è possibile un movimento che nasce da una protesta di base contro la casta, contro i privilegi, contro i simboli esteriori della spocchia del potere, si presenta con una Jaguar, che è in sé l'esempio del lusso, l'esempio del superfluo. E su questo naturalmente c'è stata una grande riflessione, una grande protesta, ma il gesto in sé è talmente palesemente alla luce del sole che sembra difficile che ci sia stato dietro una sorta di disattenzione, tentativo di nascondimento. Ma questo si rientra, secondo me, in un più vasto momento in cui in realtà sembra che non ci sia un rapporto diretto tra quelli che sono i simboli esteriori dell'appartenenza a una casta, di un potere reale d'acquisto, e un'intenzione in realtà di dover vivere in maniera austera un periodo che sembra imporre l'austerità. Vi faccio solo una riflessione. In questo momento, poi avremo modo di seguirlo, ci sono state, diciamo nell'ultimo anno, delle rappresentazioni simboliche che sembrano proprio determinare un nuovo rapporto fra gli oggetti simbolo del possesso, del potere, dell'appartenenza e in realtà quello che si dice. Abbiamo un Papa che sta passando alla storia per andare in giro come un poraccio, con l'utilitario, con le macchinette, che va in giro con la valigetta con dentro la tiara pontificia, e su questo tutti siamo d'accordo. Il Papa, vedete, finalmente è un aspetto evidente della mancanza di volontà di rappresentare il potere con tutti i suoi simboli esteriori. Avevamo il Mario Monti che un anno fa passò la storia perché girava con il Loden, perché era il simbolo dell'austerità, era l'idea rappresentata della micragna che doveva in qualche maniera attraversare tutti e tutto. Ma ancora più abbiamo un sindaco di Roma, Ignazio Marino, che va in giro in bicicletta. Una volta si è anche andato mezzo a schiantare, perché Roma non è certo la città per andare in bicicletta. Fa vedere che lui va in bicicletta perché sta con i poveri che vanno in bicicletta, con le persone che hanno una visione ecologica della vita. Ma ancora di più abbiamo una sorta di corsa a mostrarsi laceri e pidocchiosi per stare in linea con i tempi che sembrano questi imporsi. Può essere che in tutto questo una persona che si espone al pubblico come leader di un movimento sta infiammando Italia sia così ingenuo di andare in giro con la Jaguar, perché lui in realtà sta dalla parte dei poveri, sta dalla parte delle persone che in questo momento hanno un grande bisogno, poi in realtà gira con la Jaguar? Questo lo chiediamo direttamente a Danilo Calvani. Calvani, buongiorno. Buongiorno a voi. Lei è riuscito a far parlare di tutti questa mattina proprio perché era a bordo di una Jaguar. Allora, io ringrazio tutte le persone che mi stanno dando un passaggio, compreso il signore della Jaguar. Non ho macchina, non ho fondi. Ma ha fatto l'autostop? Come funziona? No, mi sto spostando nel paese grazie a persone che mi portano, perché non abbiamo assolutamente una lira, proprio così, grazie a questi parassiti. Quindi chi mi porta è benvenuto. È chiaro che se si parla solo di questo è ovvio che non si vuole affrontare l'altro, è normale. I politici possono solo dire questo, la macchina come ovvio non è la mia. Poi in quella foto voi avete visto che il signor Calvani, io ho un giubbotto. Bene, vi invito a vedere le foto quando abbiamo fatto i blocchi 2-3 anni fa, lo stesso identico giubbotto. Anche quello sono 5 anni che ce l'ho. Quindi strumentalizzare questa cosa è un colpo basso. Però, mi dà atto, Calvani, io lo chiamo questa mattina proprio per fare un chiarimento, non perché strumentalizzare. No, ma io devo dire che la stampa mi ha chiamato, le televisioni mi hanno dato. Io anche ci ho pensato a questa cosa, però. Io adesso devo andare a Roma, non ho macchina, qualcuno mi viene a prendere. Ma dove? Da Latina sta partendo? Sì, devo andare a Roma perché e non ho macchina, ogni giorno è così. C'è anche il treno comunque? Eh? C'è anche il treno, la linea? Lo so, andare da Pomezia, aprile a Roma, come faccio un treno? Cioè, ma voi pensate che vado solo a Genova o a Torino? Durante la strada mi sono fermato 4 volte e ho cambiato le macchine. Signori miei, è troppo bello fare questi paragoni. Noi non abbiamo più nulla, devo ringraziare chi mi sta dando una mano, mi sta dando una mano al paese, perché questo abbiamo, non abbiamo soldi. Come mai nessuno ha fotografato la mia azienda che sta all'asta, i miei assegni protestati? Come mai nessuno ha fotografato la mia disperazione come tutte quelle degli italiani? Questa non è informazione, è giusto dire che qualcuno con la Jaguar di forza. Ma si faceva prima a prendere il numero di targa e andare a vedere chi era. E chi come era? Tanto per capire, così lo chiariamo, approfittiamo di questa occasione. Chi era che l'aveva accompagnato? Il signor Walter Dell'Ompo. No, ma guarda che i colleghi suoi hanno scoperto dopo mezz'ora, e infatti dopo hanno dovuto dire, insomma, hanno dovuto permettere di governare. Ma chi è questo signore? Un suo amico che l'ha accompagnata? Sì, sì, è un camionista che mi ha accompagnato, sì. No, perché mica, no, guardi, mi creda, no, non giudico un reato avere una Jaguar. Uno può essere un appassionato e tutte le risorse della sua vita... Quindi per me un camionista può avere benissimo una Jaguar, non c'è nessun problema, questo non toglie nulla. Solo che lei aveva considerato, valutato che in effetti presentarsi con una macchina così lontana, diciamo, dal suo stato alla situazione, avrebbe creato comunque un'attenzione. Questo poteva averci. Questa attenzione è creata dalla parte opposta che ci sta combattendo, la nostra parte, anzi la CITRE sta chiamando, assolutamente. Anche perché se io mi pongo questi problemi, vuol dire che io non sono vero. Io vengo come sono. Se qualcuno mi porta il Ferrari, io ci vengo. Se qualcuno mi porta una macchina rotta, io ci vengo. Se devo venire a piedi, ci vengo. Perché se mi faccio queste, tra virgolette, masturbazioni mentali, vuol dire che dentro me c'è qualcosa che non va. E il problema è di chi se le fa queste stranezze mentali. Adesso a me mi vengono a prendere con Mercedes. Che faccio? Non ci vado? Cioè, non ho capito. C'è un amico, c'è Mercedes che mi porta a Roma. Io così sto. Andate a vedere se c'ho macchine intestate, andate, controllate, sicuramente l'avete fatto e non avete trovato nulla, quindi il primo che mi no porta... Ma io guardi, mi creda Cavani, ma lei non ha mai preso un passaggio da una macchina, ma si figuri, non vergognare, non so, nessuno ha mai preso un passaggio da una macchina. Sì, però Cavani, l'ho chiamata esattamente la mattina proprio per fare un chiarimento, siccome mi faccio anche un po' sorridere. Io pensavo questo, mi dica se ho ragione o no. Se una persona per assurdo avesse qualcosa da nascondere, ma la Jaguar la tiene chiusa nel garage, ci arriva col trattore, ci arriva in bicicletta, fanno tutti quelli che devono dimostrare in questo momento, politici per primi, che sono poveri, allora fanno vedere che loro non accedono al lusso. Ma oggi il grande problema dell'Italia è che in realtà il lusso è nascosto, è sotterraneo, è esportato. Quindi, semmai è stata ingenua lei, non sapendo bene... I meccanismi astuti, la comunicazione, dire chiaro, vado in Jaguar. Se io volevo essere furbo, la Jaguar stava in piazza, tranquillo, c'avevo il quindi, l'hanno vista tutti. Se io pensavo a questo, non ci penso proprio e non mi importa, l'avrei messa di 200 metri più avanti, avrei fatto venire a prendere lì. No, se era furbo ci andava con le scarpe sfondate, camminando in bicicletta. Guardate le foto delle scarpe che ho e il giubbotto che ho, guardatele. Sono le stesse di 3 anni fa, guardate che il maglione che ho è la sciarpa, non ho neanche i soldi per comprare i vestiti. Guarda che non sto scherzando. No, ma io le credo, le do spazio apposta, perché volevo chiarire, un grande equivoco. Ma lo sai qual è, dottore, che noi non siamo avvezzi a queste cose, però non importa, se io devo fare queste cose, voglio che la gente lo sa, mi giudichi per quello che sono. Ho fatto un'ingenuità, per me non è l'ingenuità, è lealtà, ed è giusto che vengo giudicato così, perché io sto giudicando gli altri. Anche perché onestamente, Calvani, uno che ti offre un passaggio, con una macchina veloce si arriva prima e si fa prima, piuttosto uno te lo offre... Ma veramente, mi danno 2 o 3 passaggi quando vado lontano, fanno 3 o 4 macchine, dipende da come mi trovo. A Torino mi hanno preso con Tubro, capito? Cioè... Ma queste persone chi sono? I suoi amici, i suoi, diciamo, simpatizzanti? Amici quando parto dalla vita, ma quando vengo a Genova, a Torino, lì neanche li conosco, cioè se non per telefono ovviamente. Ormai l'Italia è questa, sta succedendo il finimondo. Io manco li conosco se non per telefono, mi prendono e mi portano perché non mi so muovere, nelle città non le conosco. Quindi è tutto così, è un continuo, anche per dormire, per mangiare, non abbiamo i soldi per mangiare, non abbiamo i soldi per mangiare quando ci spostiamo. Cioè, capisci quello che sto dicendo? No, guardi, le do tutto lo spazio proprio perché voglio chiarire quello che è un grande dilemma nazionale. Tutti si chiedevano come mai con la Jaguar. Io mi domando, a meno che sia un folle, è chiaro, se si presenta con la Jaguar non è la sua, perché sennò farebbe sorridere, è capito? È chiaro. Vabbè, è normale, guarda, io adesso sto capendo alcuni meccanismi, no? Perché funziona così, cioè non dire non, quello che è vero, quello che è positivo, dire solo quello che infanga, ma neanche infanga, perché alla fine... Ma oggi dove andrà, per esempio? Oggi con la Mercedes dove va? A Roma? No, oggi devo andare a Roma, a Aprilia, a Pomezia e Civitavecchia, poi stasera sono a Santoro. Quindi diciamo, anticipiamo... Ma con la Mercedes vado solo a Pomezia, dopo mi vengono a prendere, non sono con... No, però anticipiamolo, diciamolo adesso, perché così la gente non si stupisce più. Oggi Calvani gira in Mercedes, non ve la... Non... No, solo fino a Pomezia. E poi da Pomezia al Santoro con che ci arriva? Non lo so, mi vengono a prendere il gruppo, il presidio di Pomezia, non lo so. No, ma Santoro se lo chiede gli dà una macchina, però, gliela danno. No, la macchina. Come gli rimane, i ragazzi hanno dato una macchina. Ma c'ha la sua, c'ha una bella macchina con l'autista, manda quella, no, Santoro. No, no, ieri mattina mi sono venuto a prendere quelli della Rai, c'era una bella macchina, cacca, quella costava, era BMW. Non so, BMW della Rai? Loro, sì. Certo, anche la Rai potrebbe fare meno di BMW, onestamente, infatti, visto che le paghiamo infatti. Noi, no? Santoro mi viene a prendere, non so come, mi ha detto che lo deve aspettare dalla parte. Ma viene lui, viene lui guidando lui o ruotolo oppure manda un autista? Non lo so, a questo punto, dopo quello che si dice, forse manda qualcun altro, se no, non so. Comunque ormai abbiamo sdrammatizzato questo fatto, lei da ora in poi potrà girare con quello che vuole, anche con se uno la venisse a prendere con un elicottero, lei accetterebbe? No, no, ma io voi. Calvani, se uno venisse con l'elicottero per far prima, accetterebbe? Sì, se qualcuno mi prende con l'elicottero, perché no, che mi frega a me, se qualcuno conosce la casa mi prende e mi dice Dani, bisogna andare là perché non ce la faccio arrivare, perché no? No, lanciamo anche questa cosa, lo dico seriamente, se lei volesse muoversi più velocemente, ci fosse un imprenditore o un suo supporter che ha a disposizione magari un piccolo aereo privato, un elicottero, ormai visto che è sdoganato il fatto che lei può girare con quello che vuole perché non ha nulla e quindi ben venga un bel trasporto, lo dica pure, se vuole lei accetta qualunque tipo di passaggio. Alla fine la notizia della Jaguar sarebbe vera, cioè se veramente io avevo questa Jaguar ed ero così soddisfatto dopo che ho aziende all'asta, quindi appunto, vado con macchine così lussuose dopo che me la metto, è giusto dire allora questo sta a mentire, che cazzo sta a fare? No, questo è giusto. Allora senta, Calvani, io devo dare un attimo, visto che parliamo di automobili, un secondo, le informazioni del traffico, resti in linea così poi mi racconta, visto se no sembra che l'abbiamo chiamata soltanto per parlare della Jaguar, sarebbe una baggianata, mi racconta in sintesi quello che vuol fare, qual è il suo progetto da qui ai giorni futuri. Si fermi un istante, tra poco con noi. Abbiamo iniziato la trasmissione intervistando il leader coordinamento 9 dicembre, che è il personaggio chiave di quello che sta accadendo in Italia in questo momento, proprio perché eravamo abbastanza stupiti del fatto che tutta l'Italia parlasse di lui, semplicemente si era presentato a Genova a parlare alla folla con una Jaguar, una macchina di lusso, e lui ci ha spiegato che è un agricoltore, si occupa di, è un coltivatore di ortaggi dell'Agropontino, ha una famiglia, ha una situazione disperata e lui accetta passaggio a chiunque glieli dia. Calvani, Danilo Calvani è ancora al telefono. Calvani, per capire esattamente, lei si sente al centro, si sente la responsabilità di essere al centro di tutto quello che sta accadendo in Italia? Mi risponda, lei è veramente il punto zero, il promotore di tutto il movimento c'è in Italia? È possibile sia questo? Sì, infatti io ieri sono stato proprio sia a Genova che a Torino, piazze particolarmente calde, soprattutto Torino, sono andato lì a metterci la faccia perché era importante la mia presenza lì dopo i fatti che sono successi, prendere le distanze da ciò che era avvenuto di negativo, perché noi non siamo violenti, parlare alla piazza e dirgli assolutamente di rispettare le forze dell'ordine, di comportarsi bene. Credo che questa cosa, ma questa non è passata, è più facile far passare la Jaguar in una piazza molto ma molto calda. Sono andato lì prendendomi le mie responsabilità, perché è giusto, se organizziamo queste cose noi dobbiamo essere presenti. Ma lei è una rete di persone, Calvani, lei parla alla piazza e si fa portare in giro in tutta Italia, ma c'è qualcuno che l'aiuta in questo? Avete un'organizzazione, qualcosa che assomiglia, guardi, a una struttura? È un'organizzazione che sta nascendo adesso con la gente, come ho detto prima. Adesso sta venendo giù veramente tutta la gente. Ecco, una cosa che mi pure preoccupa, perché magari domani sto a fianco a qualcuno, non so chi è, arriva qualche foto e questa è una persona strana. Infatti sto cercando con le questure di dirmi insomma pure chi è quello e chi non è quell'altro, che anche questa necessità adesso sta uscendo fuori. Io quella la credo primaria. Ecco, lei ha paura che qualcuno attacchi il carro al suo senza saper bene chi sia, questo è in sintesi. Guardi, su questo io sto veramente collaborando fortemente con le nostre forze dell'ordine. Non vogliamo infiltrati, non vogliamo politici, soprattutto non vogliamo persone strane e violente. E come fa a controllare però un movimento così vasto che ormai interessa tutto il paese, semplicemente da solo? Chi l'aiuta in questo? No, non sono solo, siamo, c'è anche il legato, c'è Ferro, e adesso c'è tanta gente, spontaneamente tanta. Sì, ma la struttura, tanta. Quante persone compone? Ci sarà una struttura politica? Guarda, in questo momento noi abbiamo iniziato a creare questa cosa, a unire tutti i gruppi e movimenti da marzo di quest'anno, per terminare l'operazione, diciamo, a ottobre, 6 ottobre. Quindi abbiamo messo insieme qualche centinaio di gruppi e movimenti che non si parlavano. Il problema è che erano un po' egoisti, c'era un po' di egoismo. Ma faccio un esempio, diciamo il panorama dei movimenti, che movimenti sono, che aree sono? Sono tutti gruppi, comitati, più che movimenti, ma certo, Gianni Forconi, e adesso tutti gruppi e comitati. E non c'è dietro la politica, nessuno di loro è legato a un partito. Guardi, hanno detto Berlusconi non li ha ricevuti, ma chi l'ha mai contattato? Hanno detto la Santanchieri, ma chi li mai chiama? Cioè noi, attenzione, noi ci rifiutiamo categoricamente di parlare con qualsiasi politico che sta lì. Quindi non avete nessun tipo di referente o di preferenza, Calvani, nessun tipo di referente ideale? Guarda, se avevamo un tipo di referente, uno solo oppure mezzo, noi stavamo da quella parte. Non ci riconosciamo più, ma veramente, ma a parte che non è un problema politico di chi ti deve riconoscere, ma noi siamo veramente male, siamo un disastro. Domani mattina, se qualcuno compra la mia azienda, io ho 4 figli, fuori casa, fuori, secondo lei vado a pensare a questa gente? Questo è il problema di tutti. Mi fa capire un po' meglio però come funziona la struttura, quello che tutti ci chiediamo, diciamo, un movimento così vasto, che è spontaneo per quanto si veda l'apparenza, ma che in realtà ha un suo coordinamento, perché si fanno esattamente le stesse cose in tutte le città d'Italia, questo richiede una struttura. La struttura allora, come si è composta? Quante persone sono? La struttura funziona bene perché vede un po' di è normale perché è spontaneo, però da 4 giorni, 5 giorni a questa parte siamo notevolmente migliorando, diciamo, l'organizzazione, man mano che il fronte tra virgolette fa emergere le persone un po' più capaci, perché prima e secondo quindi lei ha una seconda linea di persone che l'aiutano in questo? Adesso sta nascendo tutto in questo momento, perché noi siamo fatti in 150, quindi tutto il paese, però ci siamo resi conto che assolutamente è zero. Ma quali sono le città in cui è più rappresentato? Le persone di sua maggior fiducia, diciamo, per capire, le città chiave? Ogni città, ogni capoluogo della provincia, noi abbiamo tutta gente che sta arrivando in continuazione. Adesso, fino al giorno prima no, stavamo al 30%, ora stanno venendo in tutte le parti. Ma chi tiene le fila di tutto questo? È un lavoro immenso, immagino. Siamo diventando matti, bravo, stiamo, grazie alla rete riusciamo un po' a filtrare. Quindi tramite la rete, diciamo, il mezzo, il collettore è la rete, perché sennò... Sì, stiamo facendo dei gruppi chiusi e quindi riusciamo a dialogare con la gente. Ma come vi strutturate gerarchicamente? Cioè, immaginiamo il leader che è Calvani, poi cosa c'è? La parte seconda, chi c'è? La seconda linea, diciamo, i colonnelli, guardi, chi sono? Guardi, non c'è nessun leader, è vero che moralmente questa cosa viene affidata a noi, però il problema è un altro. In questo momento si è compatti e seguendo questa linea. È ovvio però che tutto può andare bene finché tu arrivi a questo obiettivo. Io credo che qual è l'obiettivo, Calvani? Ce lo spieghi? Niente, questi se ne devono andare, noi vogliamo il rispetto della nostra Costituzione. Cioè volete che caschi il governo, questa è la... No, anche se va proprio a votare, che si torni a votare. Ma con cosa? Ma votare con quale legge? Con quella che c'è, che è il Mattarellum. No, al momento ancora non si sa bene, non è ben definita la cosa. Non si sa bene, però il porcellum non si... E voi per chi votereste? Per chi votereste proprio? Non lo so, ma comunque... Scusate. No, mi faccio parlare. Sì, sì. Io non credo che sia un problema di simboli, io credo che sia un problema di persone. Io credo che dopo questa cosa il popolo italiano avrebbe una posizione... Allora, facciamo un quadro, che in questo momento non ho gli strumenti per definire se è possibile. Mettiamo che per assurdo si definisca qual è il sistema attraverso cui si vota, Mattarellum, Porcellum, non è definito, non è chiaro, nessuno ci sa dare una risposta. Ammesso che si fosse, lei si presenterebbe a una prossima richiesta elettorale? Lei farebbe il partito di Calvani? Allora, no categoricamente, anche perché... Se volevo questo, io ero già senatore. Ma chi rappresenterebbe quello che adesso sta muovendo allora? Un domani come alternativa? Ma guarda, noi non siamo, attenzione, noi non vogliamo dire, ci vuole questo. Noi stiamo dicendo, non ci vedete voi così come siete. E va bene, questo l'abbiamo capito. È un'altra cosa, perché avete distrutto il paese, avete distrutto la nostra Costituzione. Ma vedete, non me lo dica a me, io sto come lei a cercare bravo, di... Il mondo, bravo, vabbè. Bravo. Vabbè, vediamo per assurdo, no, perché bisogna far capire alle persone. Voi dite... Chi c'è adesso deve andare a casa, su questo mi sembra l'abbiamo capito. Ma poi chi proponete voi? Un nome, una persona, uno schieramento? Non proponiamo nessuno, anche perché se la gente va a casa, sicuramente va a casa perché ha commesso dei gravi reati. Ma chi ci va al posto loro, Calvani? ci hanno dato le persone pulite che stanno proponendo. Scusa, ma voi le proporrete queste persone? Le proporrete queste persone? Avete dei nomi? Usciranno dei nomi, si proporrà la gente. Va bene, aspettiamo, aspettiamoci a questi nomi. Grazie Calvani, abbiamo chiarito il discorso della Jaguar, abbiamo capito forse qualcosa di più rispetto a quello che vagamente si legge nei giornali. A domani.